L'uomo che alla fine ha trovato la paura. C'era una volta un ragazzo coraggioso e impavido di nome Triton. Nella terra di Strogerd il coraggio non era raro, ma per Triton la paura era qualcosa che non esisteva nel suo dizionario. Alcuni potrebbero dire che non era saggio e alcuni sconsiderato, ma il ragazzo letteralmente non sapeva cosa fosse la paura. Oh, Triton, sei così coraggioso! Non ti spaventi proprio mai? Eh? Di cosa parli? Paura! Quando qualcosa ti spaventa e ti senti... spaventato? Deve essere abbastanza strano provare qualcosa del genere. Dovrei provarci anch'io. Comunque, buongiorno anche a te. Buongiorno! Dato che tutti continuavano a parlargli della paura, Triton divenne molto curioso. Decise di avventurarsi in tutto il mondo per trovare la paura. Camminò e camminò per ore, finché non trovò un povero uomo che piangeva seduto nel bosco. Oh, gentile signore, mi aiuti per favore, la mia famiglia! Sono stati presi in ostaggio dal drago malvagio che vive nella grotta. Ti prego, aiutaci! Certo, io vi aiuterò. Sconfiggerò il drago e libererò la tua famiglia. Corse in avanti a tutta velocità verso la grotta. Quando la raggiunse, vide il magnifico drago sdraiato accanto alla famiglia del povero uomo. Sciocco ragazzo! Sei venuto qui per essere mangiato? Sono venuto qui per liberare quei prigionieri da te! Che cosa? Perché non ci provi? Triton corse su un albero vicino e spezzò una vite. La legò con un lazzo e la scagliò contro la testa del drago, aggrappandosi alla sua bocca. Afferrò un'altra vite e si girò verso il drago e saltò sulla sua schiena. Ah, ora sei mio! Andiamo, ecco qui! Vola! Triton saltò giù dalla schiena del drago e atterrò di fronte al povero uomo che ora era riunito alla sua famiglia. Il drago volò via nel cielo. Grazie, signore! Hai salvato la mia famiglia! Mi chiamo Arzan e te ne sono davvero grato! È stato un piacere, signore! Non ti sei spaventato di fronte al potente drago? Quindi avrei dovuto avere paura? Ho sentito l'adrenalina che mi scorreva nelle vene. Sono alla ricerca di questa paura e devo ancora trovarla. Molto lontano, in una città chiamata Drefar, c'è un oracolo che avrà la risposta a ciò che cerchi. Vai lì e dagli questo braccialetto e troverai quello che stai cercando. Grazie! Triton continuò il suo viaggio alla ricerca della paura. Andò avanti e ancora avanti attraverso le fitte foreste, i deserti caldi e gli inverni freddi, fino a quando un giorno raggiunse la piccola città chiamata Drefar. Come da istruzioni, andò dall'oracolo. Quando entrò, vide un uomo misterioso avvolto in un cappuccio, seduto davanti ad un inferno magico. Ciao, Triton. Ti stavo aspettando. Come fai a sapere il mio nome? Triton senza paura. È così che ti chiamano. Vengono raccontate storie sulla tua leggendaria impresa con il potente drago. Ho viaggiato in lungo e in largo alla ricerca di questo sentimento chiamato paura. Dimmi, o saggio, come posso trovare la paura? Una domanda interessante. Ma quale sarà la mia ricompensa per averti detto il segreto di ciò che cerchi? L'unica cosa che ho è questo braccialetto. Ah, l'amuleto incantato del destino! Meraviglioso! Questo è un braccialetto magico che appartiene a una coppia. Portami l'altro pezzo e troverai paura. Vai sulla riva dell'oceano e tuffati fino in fondo all'oceano. È qui che troverai il braccialetto e la vera sensazione di paura. È tutto? Triton andò sulla riva dell'oceano e si tuffò in acqua. Arrivato lì, trovò una nave bloccata su un piccolo iceberg che stava per affondare lentamente nell'oceano. Aiuto, aiuto, qualcuno mi aiuti! Devo aiutarlo! Triton saltò nell'acqua gelida infestata dagli squali e nuotò verso la nave. Quando raggiunse la nave, fu trascinato sul fondo da una forza incredibile. Che cosa? Quando raggiunse il fondo, vide una sirena con una catena per mano, una per tirare la nave e l'altra per tirare lui giù. Sulla sua mano c'era il braccialetto, l'amuleto incantato del destino. Triton tirò la sirena a sé con tutta la sua forza e le avvolse la catena attorno. Tolse il braccialetto dalla sirena e nuotò di nuovo a riva. Fatto! Tornò alla tenda dell'oracolo, ma non c'era nessuno. Triste e depresso per non aver ancora provato paura, entrò nella città dove sentì suonare la campana del regno due volte. Mi scusi, signore. Cosa significa il suono della campana? Il re di Drefar ha annunciato il suo ritiro. Al suono di tre campane, la Fenice verrà liberata. La persona sulla quale volerà sarà portata al palazzo del re. Perché non aspetti e vedi che succede? Potrebbe suonare in qualsiasi momento. Pochi istanti dopo, le campane del regno suonarono due volte. Il popolo del regno era in attesa e una bellissima fenice sorse da un fuoco e volò in aria. Wow! Una creatura così magnifica! La fenice volò in aria e si diresse verso Triton, che era stupito. E in un secondo scomparvero nel nulla. La fenice portò Triton alla corte del re di Drefar. Benvenuto, Triton. Sua maestà, è lei la persona che ho salvato nel bosco. Sì, Triton. Da tempo cerco un successore al trono, ma nessuno era degno. Ho bisogno di un uomo coraggioso, forte, impavido e gentile. Tutti attributi molto importanti per un re che tu possiedi, Triton. Che cosa? Quindi vuol dire che tutto questo era per mettermi alla prova? Il drago e il profondo oceano con la spaventosa sirena e tutto il resto erano prove? Sì, e sei stato grandioso. Ecco perché ho scelto te come mio successore. Ma cosa succede se non riesco a rendere felici le persone? In quello stesso momento, un improvviso senso di paura lo riempì per la prima volta. Cosa succede se non riesco? Cosa succede se fallisco? Cos'è questa sensazione? È questo ciò che chiami paura? Triton, sei un uomo nobile, con il cuore di un leone. Sono sicuro che sarai un grande re, se sceglierai di accettare. Non lasciare che la paura ti domini. Lascia che ti guidi. Impara da essa. Grazie, re Arzan. Accetto umilmente la sua offerta. E così Triton divenne il re di Drefar e governò il regno come un grande re, amato da tutti, con la paura seduta sempre al suo fianco. Lunga vita al re Triton! Lunga vita al re Triton! E le storie di Re Triton, il senza paura, vengono tramandate di generazione in generazione, perché non vi è mai più stato un re così coraggioso, gentile e impavido a Drefar.